Il Signore disse a Mosè: parla ad Aronne e digli: quando collocherai le lampade, le sette lampade proiettino la luce dinanzi al candelabro. Così fece Aronne, collocò le lampade così che illuminassero di fronte al candelabro, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il candelabro era fatto d'oro massiccio, dal suo fusto ai suoi bracci era massiccio. Secondo la visione che il Signore aveva mostrato a Mosè, così era stato fatto il candelabro. Il Signore disse a Mosè: prendi i Leviti tra i figli di Israele e purificali. Così farai per la loro purificazione. Spargi su di loro l'acqua dell'espiazione, poi si raseranno in tutto il corpo, si laveranno i vestiti e saranno puri. Prenderanno un toro giovane e la propria offerta di fior di farina intrisa d'olio, mentre tu prenderai un secondo toro giovane per il peccato. Farai avvicinare i Leviti davanti alla tenda del convegno e farai radunare tutta la comunità dei figli di Israele. Presenterai i Leviti al Signore e i figli di Israele poseranno le loro mani sui Leviti. Aronne presenterà i Leviti come offerta da farsi con il rito di agitazione davanti al Signore da parte dei figli di Israele, ed essi faranno il servizio del Signore. Poi i Leviti poseranno le loro mani sulla testa dei tori. Con uno farai il sacrificio del peccato, con l'altro l'olocausto al Signore per l'espiazione dei Leviti. Farai stare i Leviti davanti ad Aronne e ai suoi figli e li presenterai come offerta da farsi con il rito di agitazione davanti al Signore. Separerai i Leviti dai figli di Israele, ed essi saranno miei. Dopodiché i Leviti verranno a lavorare nella tenda del convegno. Li purificherai e li presenterai come un'offerta fatta con il rito dell'agitazione, perché sono donati, miei donati, tra i figli di Israele. Me li sono presi al posto di tutti quelli che aprono il ventre, al posto di tutti i primogeniti tra i figli di Israele, perché mio è ogni primogenito dei figli di Israele, uomo e bestia. Nel giorno in cui colpii tutti i primogeniti nella terra d'Egitto, li santificai per me. Presi i Leviti al posto di tutti i primogeniti dei figli di Israele e diedi i Leviti come donati ad Aronne e ai suoi figli, dal mezzo dei figli di Israele, per fare il servizio dei figli di Israele nella tenda del convegno e per espiare per i figli di Israele, in modo che non ci sia un flagello se i figli di Israele si avvicinano al santuario. Mosè, Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele fecero ai Leviti quanto il Signore aveva ordinato a Mosè riguardo a loro. I Leviti si purificarono, lavarono i loro vestiti. Poi Aronne li dispose davanti al Signore. Aronne espiò per loro per purificarli. Dopodiché i Leviti vennero a fare il servizio nella tenda del convegno davanti ad Aronne e ai suoi figli. Come il Signore aveva ordinato a Mosè per i Leviti, così essi fecero. Il Signore disse a Mosè: questo riguarda i Leviti. Da 25 anni in su verranno a schierarsi in servizio per il lavoro nella tenda del convegno, e da 50 anni in poi si ritireranno dall'esercizio del lavoro e non lavoreranno più. Serviranno i loro fratelli nella tenda del convegno per conservare le osservanze e il lavoro. Non lavoreranno. Così farai ai Leviti riguardo ai loro uffici.